Saper chiedere scusa è una cosa importante e credo che tutti siamo abbastanza convinti che sia una delle cose che nella vita bisogna saper fare. Ma il punto è, da adulti, perché chiediamo scusa? Perché ci sentiamo in colpa? Perché ci sembra che sia l'unica cosa da fare in quella situazione? O perché pensiamo che l'altro se lo aspetti? Oppure lo facciamo perché ci siamo resi conto che le abbiamo fatto del male, che in qualche modo abbiamo causato del disagio all'altro, gli abbiamo causato sofferenza e allora in qualche modo vogliamo recuperare. Ecco, credo che sia importante che la motivazione per la quale ci scusiamo sia quella. Se poi questo causerà anche un alleviarsi del nostro disagio e del nostro senso di colpa, ben venga, ma credo che l'attenzione debba essere posta sull'altro. Ma chiedere scusa credo che sia un po' come fare una torta. Non basta l'intenzione per fare una torta buonissima, ci vogliono tutti gli ingredienti necessari. Ed occorre anche avere tanta pazienza, forse la stessa pazienza dell'arte giapponese del kintsukoroi. Avete presente? Quando si rompe un vaso di ceramica, a volte in Giappone lo riparano con delle iniezioni di oro o di argento liquido e così le venature diventano qualcosa di prezioso. Il vaso viene ricostituito, ma si vede che ci sono quelle imperfezioni, ma sono preziose perché sono di oro. Le nostre relazioni, in un certo senso, sono come dei vasi preziosi e a volte le trattiamo male, a volte buttiamo dei sassi, scontriamo questi vasi, a volte si scheggiano, a volte si frantumano proprio. L'arte di chiedere scusa richiede la stessa pazienza, di prendere i singoli pezzi e di cercare in qualche modo di rimetterli insieme, mettendoli insieme tra di loro con quell'oro liquido così prezioso che è la nostra richiesta di scuse. Ecco quindi i 5 ingredienti necessari. Se ci saranno tutti e 5, noi saremo sicuri che le nostre scuse saranno efficaci. Ma forse non è neanche giusto dire efficaci, perché nei rapporti interpersonali, che sono così complicati, così intricati, così a volte anche incomprensibili, promettere un'efficacia forse è sempre sbagliato. Piuttosto, proprio perché sono così difficili, credo che sia importante cercare di metterci tutta l'attenzione, tutta la buona volontà, perché non manchi nulla, lasciando comunque all'altro poi la parola finale. Sì, perché il fatto che le scuse vengano accolte poi dipende non soltanto da noi, dipende da mille altri fattori, dipende da come l'altro effettivamente si è sentito, da quale significato ha dato a quel gesto o a quella situazione, magari dipende in generale da come lui sta attraversando la sua vita in quel momento. Ma proprio perché ci sono tutti questi altri fattori che vengono a complicare, credo che sia così importante da parte nostra cercare proprio di fare il massimo. Queste 5 idee le ho prese da un articolo in inglese di Guy Winch, che ha scritto questo libretto fantastico, tra le altre cose, Pronto intervento emozioni. Un libretto nel quale si propone di suggerire delle piccole, semplici ed efficaci strategie per affrontare in modo diverso le difficoltà della vita. Nell'articolo Winch fa un esempio di questo tipo. Hai avuto una giornata terribile, pessima al lavoro. Arrivi a casa stanco e non vedi l'ora di mangiare qualcosa e buttarti a letto, ma ti ricordi che dovresti andare al compleanno di uno dei tuoi amici più importanti della tua vita. Ma proprio non ce la fai, anche perché pensi che andando non soltanto non ti godrai la serata, ma magari potrai anche rovinarla agli altri. E allora a quel punto mangi un boccone e te ne vai subito a letto, senza neanche avvisare. E il giorno dopo, quando ti svegli, ti senti assalito da un grande rimorso, un grande senso di colpa. E allora capisci che devi chiedere scusa al tuo amico. A questo punto cosa dovresti fare per riparare quel vaso rotto? Ecco finalmente i 5 ingredienti fondamentali. Innanzitutto, una chiara dichiarazione di dispiacere. Questo primo passo è importante per far capire all'altro che ci siamo resi conto che è successo qualcosa. In questa prima fase l'attenzione è ancora rivolta su di noi, ma è necessario perché l'altro deve capire che quello che è accaduto non ci è scivolato addosso, ma ce ne siamo resi conto, ci ha toccato dentro nel profondo. Franco, sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto ieri sera. Secondo passo, esprimere dispiacere per quello che è accaduto. Cioè è importante far capire all'altro che il nostro non è un dispiacere generico, ma che abbiamo proprio capito di aver fatto quella cosa che lo può aver ferito in qualche modo. In questo secondo passo, quindi, l'attenzione è su ciò che è accaduto. Franco, sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto ieri, per il fatto che non sono venuto alla tua festa di compleanno e non ti ho neppure avvisato. Terzo passo, riconoscere il motivo per cui ciò che è accaduto è una cosa grave. Ed è grave perché ha violato magari delle norme sociali oppure delle aspettative interpersonali. In questo terzo passo l'attenzione è sulla consapevolezza del perché quello che è accaduto è una cosa grave. Ieri sul lavoro ho avuto una giornata terribile, sono arrivata a casa e mi sono buttato subito a letto, ma sicuramente questo non è un buon motivo per non presentarsi e soprattutto per non avvisarti neppure che non sarei venuto. Tra parentesi, se nel raccontare si mettono in campo anche dei motivi effettivi, reali, per cui quella cosa è successa, bisogna non calcare troppo la mano su quei motivi, perché non dobbiamo dare l'impressione che siano delle scusanti, delle giustificazioni che ci assolvono da quello che abbiamo fatto. Quarto passo, dobbiamo cercare di esprimere empatia, dobbiamo cioè esprimere una comprensione esplicita di come l'altro si può essere sentito dopo quello che è successo, esprimere la comprensione dell'impatto che le nostre azioni hanno avuto sulla sua persona e sulle sue emozioni. Qui finalmente l'attenzione è tutta rivolta all'altra persona ed è sicuramente il momento più importante, perché finalmente mettiamo al centro l'altro e i suoi sentimenti e l'altro capisce che è al centro dei nostri pensieri e della nostra richiesta di scuse. Oltre ad essere l'ingrediente più importante, forse è quello che più facilmente viene omesso, purtroppo. È così importante perché l'altro, per perdonarci, deve proprio comprendere che noi abbiamo capito bene il suo stato d'animo, quello che ha sentito, quello che ha sofferto in conseguenza delle nostre azioni. Non è semplicissimo, ma non è neppure impossibile. Qui Winch butta giù una quindicina addirittura di dichiarazioni in cui la persona mostra all'altro che ha veramente capito il suo stato d'animo. Ve le leggo perché sono fantastiche. Posso solo immaginare come tu ti sia sentito ferito, deluso e arrabbiato quando hai capito che non sarei più venuto. So quanto ti sei impegnato nella preparazione della festa. Chissà quante volte ti sei chiesto dov'ero e se mi sarei più presentato. Sicuramente anche gli altri ti hanno chiesto dov'ero, come mai non c'ero. Mi spiace moltissimo di averti messo in una posizione così imbarazzante. Spero che tu non fossi preoccupato per me e che comunque ti sia goduto la festa, ma mi sento comunque male nel pensare che il mio comportamento egoistico abbia potuto rovinarti l'umore, la festa e magari anche la notte. Mi dispiace tanto di non essere stato lì con te, come avrebbe dovuto fare un vero amico, e di non essere stato al tuo fianco per festeggiare il tuo compleanno. Spero che abbiate colto tutte le sfumature con le quali in questo modo veramente si dimostra all'altra persona che veramente ci siamo messi nei suoi panni. Infine, una richiesta di perdono. E qui l'attenzione è tutta rivolta al rapporto, perché chiedendo perdono noi in fondo dimostriamo che ci teniamo a quel rapporto, a quella relazione. Abbiamo capito che abbiamo fatto qualcosa che può aver incrinato quel rapporto che c'era, ma abbiamo il desiderio che l'altra persona possa accogliere le nostre scuse e possiamo recuperare ciò che c'era. Quando chiediamo perdono, dobbiamo riconoscere però all'altro la libertà di accogliere le nostre scuse e di perdonarci. Bisogna avere tanta pazienza, bisogna dare il tempo all'altro, sì, il tempo. Perché in fondo dare tempo all'altro, ancora una volta, significa che abbiamo compreso che quello che è accaduto in qualche modo può aver segnato l'altro e deve aver bisogno di tempo per assimilarlo e per perdonarci. So che potrebbe volerci un po', ma spero soltanto che tu possa perdonarmi. All'inizio potrà quasi sembrare naturale il fatto di dover formulare le scuse in modo così completo ed elaborato. E come in tutte le cose ci vuole tempo, tempo per capire, tempo per fare pratica, tempo per assimilare, fino a fare le stesse cose in modo molto naturale. Riuscire ad utilizzare tutti questi 5 ingredienti riuscirà a far capire all'altro che veramente teniamo a lui e alla nostra relazione con lui. Ci aiuterà ad assumerci le nostre responsabilità, ad alleviare i nostri sensi di colpa e speriamo soprattutto possa aiutare a recuperare quell'amicizia, quel rapporto, a ricostituire quel vaso di ceramica così prezioso che possiamo avere in qualche modo danneggiato. So benissimo di non aver detto tutto e che ci sono mille altri fattori da tenere presenti nel chiedere scusa. Se volete aggiungeteli nei commenti. E se vi sembra che nel video qualche indicazione utile ci possa essere, allora condividetelo con i vostri amici.